correre per un po' di sfare. Salima si citi di gommo. Salima tu vuoi si stetti a sempre che ci tia. Questa roba qui. Sì. Lo vuoi registrare anche questo? Sì. Ok.